Giuseppe ha chiamato da Napoli, buongiorno. Buongiorno signor Carasini, le volevo chiedere due cose per quanto riguarda il Napoli. Sì. La prima, non è vero che Mazzarri si lamenta, perché se lei vede le partite del Napoli oppure segue qualcosina del Napoli, sono tre partite che il Napoli ha avuto dei torti incredibili. Incredibile, a Genova sì. Soprattutto incredibile, ripeto, quel disgraziato di arbitro ha fischiato all'inizio della partita col Napoli non ancora in campo e il Napoli è entrato solo sul 3-0. Genova non dobbiamo metterla a Genova, perché se il Napoli a Genova avrebbe giocato 10 minuti del secondo tempo, il Genova prendeva 4-5 palloni come le ha prese all'andata. Punto primo. Punto secondo, se lei guarda, sì, i portieri che vengono a Napoli sono tutti bravi, la partita successiva fanno delle papere esagerate. Una leggenda.